io sto calmo, ma io sto calmo, è che io ti ascolto tutte le sere e a volte io faccio il camionista, se ti avrei mezzo alle mani a polpette ti farei a te, tu hai curato becchino da parenzo, de. La Zanzara. Voglio difendere, cari ascoltatori della Zanzara, popolo di Radio 24 e della Zanzara, David Parenzo, voglio difendere questo cronista di Torino, che è stato sospeso dalla RAI per aver giocherellato con i tifosi della Juventus fuori dallo stadio. Lo voglio difendere perché non c'è nessun razzismo, non c'è nulla. Cercate di capire, cari napoletani che siete all'ascolto, che il signore che faceva le domande voleva scherzare per far dire delle cose ai suoi interlocutori, non ha commesso nessun reato, non ha commesso nessuna infrazione, nulla, è un modo di fare le domande, non gli rompete le scatole, non lo massacrate, non lo minacciate, sentite. Gian Piero Mandola è andato intorno alle 16 ai cancelli a sentire i tifosi. Oh, Vesuvio Navali tu! I napoletani sono ovunque, quindi non è che possiamo considerare sud, centro, nord, sono ovunque, un po' come i cinesi. E voi li distinguete dalla puzza con grande signorilità. Sì, molto sì, elegantemente, sì, sì. Certo. Ti amo Terrone, ti amo. Che fai, Parenzo? Ti accodi come al solito al politicamente corretto? No, questa volta mi pare tu abbia perfettamente ragione. Eccessivo il provvedimento della RAI, anche se io adoro la RAI, adoro il cavallo della RAI, quindi tutto ciò che viene fatto lì per me. Ma io, non è questo il punto, imbecille, non è questo il punto, non è questione di RAI o non RAI. La questione è: ha fatto un servizio di radio. Ma stai tranquillo, perché devi iniziare subito in maniera sbagliata? C'è una cosa molto chiara: c'è un signore che è stato sospeso e viene minacciato perché ha fatto una domanda un po' curiosa a un interlocutore. Ho detto eccessiva la sospensione, eccessivo come provvedimento, mi pare evidente, l'ho detto subito fin dall'inizio. Dopodiché anche questo è un po' un coglione, però, cioè poteva qui sta, è il servizio pubblico, non è che lo sta facendo da radio, da TV Bubù, no? Cioè, bisogna anche capire sempre nel posto dove si è, lì è la RAI e chiaramente non è che puoi fare sempre a mandracata, no? Sì, questo è vero, poteva ovviamente nei confronti di questi cori magari usare delle parole più dure, e ma questo dico, quella è la RAI, non detto, non si deve per fare per non cioè si deve fare per forza così di questo paese. Ma non si deve fare per forza così, non si deve fare per forza così, non, si può anche ironizzare, si può anche cercare di tirar fuori da quegli interlocutori così beceri delle cose, insomma ci sono no, diversi ma modi. Siamo tutti d'accordo, la maieutica noi la conosciamo benissimo, quindi non è questo il punto. Provvedimento eccessivo, dopodiché se tu vai a una cena di gala ad esempio, no? Cioè invitano la Zanzara a una cena di gala, non è che noi ci mettiamo le dita del naso davanti all'ambasciatore, giusto? Magari possiamo fare una battuta, ma non ci mettiamo le dita del naso e poi diamo la mano all'ambasciatore, non lo so, chiedo, no? E invece voglio dire una cosa, caro David. Mi senti bene comunque, no? Sì, sì, ti voglio dire una cosa al prefetto, al signor prefetto di Napoli. Il prefetto di Napoli, il prefetto di Napoli. Tu non sai nulla perché non hai letto nulla, naturalmente. Il prefetto di Napoli, che di fronte a un prete anticamorra, uno che combatte sui rifiuti, eccetera, eccetera, sì, a un certo punto si spazientisce, il signor prefetto di Napoli, perché il prete chiama signora, ma lo fa non per offendere, non come facciamo noi per prendere per i fondelli o per il culo. Non lo fa in questo modo? Lo fa davvero perché non sa che parole usare di fronte alle autorità, no? E allora se la prende, lo attacca, lei non si deve permettere, questo è un prefetto, è un uomo dello Stato e delle istituzioni, signor prefetto. Prefetto della Repubblica Italiana. Pensavo signore era. No, lei lo sa bene, quindi si rivolga. No, anche... signor prefetto, non vuol dire. Bravo, comincia a fare questo, perché noi non sono dati agli occhi dei cittadini che possono essere, perché c'è anche un rispetto per le istituzioni. Ce n'è. Io la chiamerei il signore, ce n'è di rispetto ancora. Se io la chiamassi il signore, mi fa perdere anche la conoscenza dell'italiano. Lei come reagirebbe? No. Non era mia intenzione offendere. Allora la guardi, chiami il signor prefetto. No. Non è necessario chiamare qualcuno dottore, eccellentissimo, professore, signor laureato, eccetera, eccetera. Roba da fascismo. Un prete che parla di fronte a un consesso di persone può tranquillamente rivolgersi ad una persona, ad un prefetto, chiamandola signora. Semplicemente signora. Non succede nulla, caro prefetto, anche perché non era offensivo, ripeto, non era offensivo. Caro perfetto, chiamiamolo perfetto. Adesso voglio farvi ascoltare il presidente del Consiglio regionale, ancora per poco e per fortuna, del Lazio, il signor Abruzzese. Signor Abruzzese, questa mattina, il quale si è fatto fare 50 multe con la sua auto blu. 50 multe. E naturalmente queste multe da chi verranno pagate, secondo te? Da noi, da Pantalone. Dimmi una cosa, da chi verranno pagati, cari ascoltatori, queste multe? Ben 50 prese nell'ultimo anno. Dai cittadini del Lazio. Esatto. No, anzi, da tutti i cittadini, perché sono sempre soldi. Vabbè. Che vengono dalle casse statali, certo. No, comunque sì, dai cittadini del Lazio, diciamo anche così. Cioè da voi, cari ascoltatori, verranno pagate da voi, perché questo signore si fa fare una cinquantina di multe. Quando una multa viene elevata nei confronti di una personalità pubblica, in questo caso lei, un rappresentante istituzione, nell'esercizio delle sue funzioni le paga ovviamente il Consiglio regionale. Eccolo là. Cioè noi. Cioè noi, Presidente. Sì. Ma che ride, scusa? Abruzzese! Abruzzese! Pagatele tu le multe che hai fatto con l'auto blu. Anche perché vorrei capire come si fa a farsi fare delle multe sull'auto blu. Cioè andando a 150. E perché il presidente del Consiglio regionale del Lazio all'auto blu? Una carica? No, beh, a parte quello, sì, no, hai ragione, beh, naturalmente. Perché? Sì, è giusto. Partiamo è giusto da quello. Sì, perché dovrebbe avere l'auto blu? Primo, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, che non conta assolutamente niente, se non come distributore di denaro. No, distributore di denaro, non in senso criminale, naturalmente, no. Ma cosa serve il presidente del Consiglio regionale? Ne abbiamo più bisogno noi della zanzara dell'auto blu. Chi è che fa questo rumore col telefonino? Tu? Adesso lo spengo. Ecco, ma sarebbe meglio, sì, sarebbe cosa. Il bicchierino, la sorella, la fidanzata, la maglietta sudata. Italiano Terrone che amo. Gli Schiantos, Italiano Terrone, che fu cantata in uno stadio italiano alla presenza di un sindaco. Spegni quel telefonino, ti ammazzo. Crosetto, Rottama, Berlusconi. Sentite, finalmente c'è qualcuno che dice: beh sì, saranno i colonnelli, saranno le colpe di Tremonti, di questo, di quell'altro, però pure il comandante in capo aveva le sue responsabilità, magari, no? Sono stufo di un centrodestra dove tutti sono colpevoli tranne Berlusconi, perché Alfano non l'ho scelto io, perché i dirigenti che tu contesti non li ho scelto io, perché la scelta di non avere uno strumento democratico del centrodestra per gestire la classe dirigente, per scegliere la classe dirigente, non l'ho vietato io. E vai gigante, vai Shrek, vai fino in fondo, vai fino in fondo, caro Shrek. E beh, perché qualcuno prima o poi bisogna che lo dica, no? Cioè, non è che la colpa è di La Russa, di Gasparri, di quelli che sono stati lì, della classe dirigente, di Fiorito, della Polverini, di Formigoni. E chi l'ha scelti questi qua? Cioè, chi l'ha scelti i dirigenti del partito che portano un partito dal 22, dal 23, dal 24, da quello che era, per non parlare del risultato delle elezioni del 2008, al 15%? Berlusconi. Chi l'ha scelti questi dirigenti? Berlusconi. Chi l'ha scelti? Berlusconi. Vabbè, tu lo dici, è facile che lo dici tu. Sei sempre stato anti-berlusconiano. No, ma che anti? Io non sono anti nulla. Ma dai, su. Sono a favore del buon senso, ma chi li ha scelti? Ma perché secondo te chi li ha scelti quei dirigenti? Sono io che lo dico. Li ha scelti io, li ha scelti Don Verde, chi li ha scelti? Renzi si allarga un po' troppo, il nostro Partito Democratico sarebbe al 40%, il loro al 25%, cioè lui prenderebbe il 40%, Bersani e NC il 25%. Poi eccessivo, eh? Io gli dico che il Partito Democratico che noi vogliamo è un PD che può puntare al 40%. Il loro è un Partito Democratico che, se va bene, arriva al 25%. Per cui credo che un qualsiasi dirigente saggio ha l'intenzione, il desiderio, il piacere e forse anche il bisogno di tenere insieme anche questi amministratori che stanno proponendo il ricambio dentro il PD. La taglietta, la mamma, la pizza, l'insalata, la canottiera bucata. Santanchè, di palle in giro non ne vedo. L'ha detto anche stasera che nel PDL tutti, tranne il Cavaliere, hanno le palle di velluto. Possiamo definirla un'androloga prestata alla politica? Questa sa che non l'ho capita benissimo. Androloga, quelle che controllano. No, sì, no, no, ma grazie Guido, vedo che mi vuoi bene. Aiuta, aiutato la Crosetto, capisci? Perché parlare di palle mi viene un po' difficile, perché purtroppo di palle... giro, è per quello che rimango un po' fatica. No, no, le vorrei trovare. E siamo qui, inizia la Zanzara, 800 24 00 24. È un nostro amico, è l'uomo più citato in queste ore, l'uomo più ricercato dalla politica, soprattutto in Lombardia. Beh, caro Parenzo, finalmente ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta a portare al pirellone un nostro amico! Ce l'abbiamo fatta, adesso starà toccando ferro, se non altre cose, caro, caro Parenzo, ce l'abbiamo fatta! Finalmente, presidente, buonasera! Albertini! Pronto? Pronto? Ma non rispondo a questa chiamata perché sono soltanto deputato al Parlamento Europeo ed ex sindaco. Sai cosa ti cantiamo, Albertini? Portaci al Pirelli, Albertini. Non ti sente? Dopo 3 anni di radio non hai capito che se gli vai sopra la voce non ti sente? Ma io fai un coro. Beh, fallo infatti, il coro infatti, dopo. Non l'ho sentito. Ecco, infatti, appunto, non ha capito, è un po' indietro ancora come, come comprendo. Ho capito, ma il coro lo devi fare quando ora ti sente. Ora lo ascolto. Non quando non ti sente. Se parla non ti sente. Hai capito questa regola? Se parla Albertini, tu non puoi parlare. Mi tratti sempre male. Ma non è che ti tratto male. Cioè, mi tratti sempre ci sono come la tua pezza da piedi. Ma sì, vabbè, sei anche un po' pezza da piedi, però... Adesso chiamo i sindacati adesso. Ecco, chiama i sindacati, però fai una causa per mobbing. Chiamo i sindacati. Senta, Albertini, ma insomma, diciamo la verità, ci siamo quasi, eh? Ecco. Alla candidatura, non dico alla presidenza, un'altra cosa, siamo pronti. Però ci siamo quasi. La stiamo costruendo, la stiamo costruendo. Senta, ma non è che farsi vedere... Ho ricevuto alcune richieste, ho ricevuto alcune proposte, sto valutandole. Ma con Berlusconi ha parlato? Con Berlusconi ha parlato? No, con Berlusconi non ho parlato ancora. No. Ho parlato con persone che sono vicine a lui, che vanno un po' da consiglieri. Da consiglieri? Chi è i consiglieri? Chi sono, le Amazzoni? No, non mi faccia dire perché poi finiscono nelle segrete di Arcore magari. No, ma non vorrei che fossero le Amazzoni. Voglio le persone che mi hanno chiamato. No, però scusi, Albertini, non vorrei che fossero le Amazzoni che l'hanno chiamata, no? No, le Amazzoni non mi hanno chiamato, purtroppo no, non sono così interessante per essere chiamato dalle Amazzoni. Chi è Letta? Sono un amministratore di condominio, un travè, ho l'aspetto del travè, quindi no. No, le Amazzoni preferiscono dei personaggi dell'Olimpo. Esatto, scusi Albertini, ma tra l'altro se ci fosse un'investitura di Berlusconi forse in questo momento porterebbe anche un po' sfiga, sì, non, conviene. Non conviene moltissimo farsi investire dal... no? Non esageriamo. In ogni caso, se la mia sarà una candidatura, non potrà essere una candidatura del solo PDL, che peraltro penso non è ancora venuta, ma non per una ragione diciamo, contrasto. Sì. Più che altro perché non riceverei l'adesione di altri raggruppamenti che ancora non sono politici, ma sono movimenti di opinione. Cioè lei dice, scusi un attimo se la interrompo, altri partiti. Cioè scusi un attimo, lei dice io non potrei, non posso essere appoggiato dal PDL, cioè lei non vorrebbe il PDL lista. No, posso essere appoggiato dal PDL, anzi mi farebbe piacere che questo avvenisse perché io, nonostante tutto quello che sta avvenendo, che è accaduto, sono possessore della tessera 216 del PDL, quindi non ho rinnegato quello che ho fatto, ho delle situazioni in questo momento per le quali posso esprimere un certo dissenso, per un certo modo di condursi, per alcune scelte che possono essere fatte, che potrebbero essere fatte, e mi metto in una situazione. Scusi, ma lei accetterebbe di fare le primarie? Albertini accetterebbe di fare le primarie oppure no? Oppure... Le primarie in questo caso, per quello che ho detto, sarebbero fuorvianti, perché nel mio caso, per ottenere, ripeto, per ottenere l'appoggio di altre liste, di altri partiti, faccio un esempio del PPE italiano, io non posso essere il candidato del PDL, posso essere la persona, sempre che questo avvenga, è solo comunque le primarie, lei dice, non sarebbero le primarie, diciamo, non l'adesione di altri. Ho capito, vabbè, comunque adesso al di là delle formule, però non puoi solo ipoteticamente candidato di un partito, non avrebbe la qualità. Vabbè, non posso, non sarò il candidato del PDL, ma sarò, per essere il candidato di altri raggruppamenti, le primarie a questo punto sarebbero inutili. Dunque lei non vuole sottoporsi alle primarie, questa è la sostanza. No, io non è che non voglio, cioè, ho fatto tutto il discorso, ma devo rifarlo perché lei me lo trasforma. No, in un'altra ma non è che non vuole fare le primarie, dico, sarebbe, se lei riceve l'appoggio di tutti questi partiti, se non serve. Non servono le primarie in questo senso? No, non solo non servono le primarie, ma ripeto, gli altri partiti con cui si è in contatto e anche gli altri movimenti che non sono ancora partiti, ma che vorranno esprimere o loro liste o comunque influire sulle scelte politiche della regione e della nazione, queste non accetterebbero di diciamo portare un candidato marcato PDL. Ho capito, ma io parlavo delle primarie, un'altra cosa. Comunque lei ha la testa del PDL, europarlamentare del PDL, è bizzarro che si voglia sganciare dal PDL per essere candidato. Qui la Zanzara 800 24 00 24, con un sempre più democristiano Gabriele Albertini, che sta naturalmente decidendo se candidarsi, soprattutto vediamo se qualcuno lo candida poi ufficialmente. Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, uno dei candidati del centrodestra, dei moderati, della regione Lombardia, una situazione ancora caotica. Lei preferirebbe andare a votare Albertini subito, entro dicembre, ma è impossibile, oppure a gennaio come vuole Formigoni, oppure come dice la Lega, in accorpamento con le politiche? Senz'altro prima delle politiche e il più presto possibile. Il più presto possibile. Senta, ma farsi vedere accanto a Formigoni, anche questo non è che porta male in questo periodo, no? Ma qualcuno molto malignamente lo pensa. Io, più che ricordare gli ultimi episodi certamente criticabili, per i quali lo stesso presidente Formigoni ha ammesso di non volerli ripetere, guardo ai quasi 20 anni di buon governo del territorio medio. Ma lo vorrebbe al suo fianco nella campagna elettorale ipotetica, in tutte le piazze della Lombardia, lei e Formigoni? Guardi, io non sto in questo momento immaginando la campagna elettorale, perché sono ancora neanche in panchina. Ecco, ma secondo lei in avvicinamento allo stadio? In avvicinamento allo stadio non è male. In avvicinamento allo stadio. Detto questo, io vedo se ci sarà la campagna elettorale col massimo di adesione di esponenti della società civile, di quel 54 più 10%. Il viva voce, Albertini, il viva voce. Che vota più o che vota Grillo per protesta e che vuole trovare una linea politica coerente, chiara, con persone credibili. Albertini, ancora non è la campagna elettorale, sindaco, prenda il viva voce, prenda il telefono, perché non sentiamo niente, sentiamo un ritorno. Tolga il viva voce, voce un attimo. Sì, no, è che perché sentivo meglio la vostra, ma lo so che sentivo meglio anche le interferenze di Parenzo con il viva voce. Senta, ma Tremonti che cosa direbbe della candidatura di Albertini? Cioè, farebbe un casino, chiamerebbe subito qualcuno per dire, ma come fa a candidarsi? Come farebbe Albertini? Italia ha bisogno di leader, e Albertini è un amministratore di condominio fallito. Non gli affiderei neanche il mio. Se si vuole fare un vero leader, bisogna votare 3L, 3 volte Lombardia, 3 volte leader al cubo, Giulio Tremonti. E La Russa invece come ne parlerebbe? Pronto, mi avete chiamato, pronto. Ma scusi, che ne pensa della candidatura di Albertini? Ah, Albertini è un amico, siamo con lui da sempre e per sempre. Bravo Albertini, bravo, vai avanti, adesso ti mando Danielina per i consigli. Se non la vuoi Danielina, è troppo aggressiva. Ah, vabbè, allora ti mando Decorato, con cui hai avuto un rapporto. Bravo, bravo, ecco, Decorato va bene, mi dice che va bene Decorato, sì. Ma Agnelli invece come ne parlerebbe a Berlusconi l'avvocato della sua candidatura? Chiaro Albertini, metterti d'accordo con Luca, che fate una squadra vincente, lui fabbrica le macchine e tu le guidi, bravo, puoi vincere il campionato del mondo, bravo Albertini, hai le mie stesse iniziali, G.A., bravo, vai avanti, vai avanti. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E bagno sono qui. Siamo qui, cari ascoltatori della Zanzara, con Davide Parenzo in collegamento da Milano, ma non in studio. Cose incredibili succedono, sarà domani qui in studio accanto a me. Ma qui intanto ringraziamo il Teatro Manzoni di Milano, che mi ha dato un ufficio dove io poi stasera porterò qui mia figlia a vedere un bellissimo spettacolo. Vabbè, questo non ci interessa. Ringrazio non ci il interessa. Direttore che è qui vicino, che magari possiamo poi anche salutare in diretta alla radio. No. Ricordando che no, grazie. Ricordando che il Teatro Manzoni, ma non me ne frega è niente, quello dove si sono conosciuti Berlusconi e Veronica Lario. Ti dico solo questo. Il nostro numero uno di questa sera è il gigante Shrek, che è in onda, trasmissione a cui partecipi anche tu con un ruolo diciamo decisamente minore. Il gigante, la comparsa di in onda. Cameo, anzi grandi cameo di Parenzo. Beh no, il cameo è qualcosa di più. Comunque, sì. Crosetto, il gigante Shrek, il gigante liberale, come titola oggi il giornale. Ma tu mi puoi prendere per il culo e io no, non ho capito. Crosetto dice Berlusconi ha le sue colpe e finalmente qualcuno che parla chiaro. Sono stufo di un centrodestra dove tutti sono colpevoli tranne Berlusconi. Perché Alfano non l'ho scelto io, perché i dirigenti che tu contesti non li ho scelto io, perché la scelta di non avere uno strumento democratico del centrodestra per gestire la classe dirigente, per scegliere la classe dirigente, non l'ho vietato io. Crosetto! Seguita, ti ho inseguita. Ora sei qui fra le mie dita. Beh, io direi di chiamare il signor giornalista di Torino, quello della puzza dei napoletani, perché lo voglio difendere a spada tratta. Però anche il sindaco di Torino Fassino dice è stato mandato in onda un servizio vergognoso. Io non discuto sul fatto che si possa mandare in onda un servizio con delle frasi nei confronti dei napoletani, per carità, questo può essere stato un errore. Ma cosa c'entra quel signore? Quel signore ha raccolto degli sfoghi dei tifosi fuori dallo stadio. Voleva far capire fino a che punto i tifosi sono beceri. Ha fatto benissimo. Ma permettimi. Se mai, e mai accadrà, la regina d'Inghilterra dovesse invitare il signor Cruciani a Buckingham Palace. Ma che c'entra? Cosa c'entra? Tu lì userai, non vai lì a dire a Zanzara, Radio 24, Zanzara, no, non fai così, no? Cioè magari ti comporti. Ho capito, ma non è la cosa, non è. Questa è la RAI. Ma non c'entra niente. Pubblico. Uno vuole... Ma non mi pare un servizio sgradevole, mi pare un servizio dove hanno fatto sentire le voci dei tifosi beceri. No, può essere anche come... istruttivo, come no, dire, può essere anche molto istruttivo. Modus in rebus, cioè non tutto è per forza rutto e scoreggia, ci sono dei luoghi. Bibi, ad esempio, il cane di Mughini. Ecco, proprio il cane di Mughini. No, basta col cane di Mughini. Mamma mia. Un attimo. Chi è? Pronto? Sì, Amandola? Sì. Sono Cruciani, ciao Radio 24. Ciao. Ciao, ti voglio difendere a spada tratta per questa cosa, te lo dico subito. Certo, peccato che io non posso parlare, quindi... Ma hai parlato con tutti, hai parlato, ma non puoi parlare con noi. No, non è vero, perché io ho a tutti detto che non potevano virgolettare cose. Beh, ho capito, però hai parlato con tutti, hai dato un'intervista alla stampa, hai parlato con l'inchiesta. No. La stampa, allora, la stampa mi ha sentito al telefono prima che arrivasse il... La sospensione? Non lo so, prima che arrivasse la decisione della RAI, che io fossi a conoscenza della decisione della RAI di non... rilasciare nessuna come sì. linea aziendale, non rilasciare nessuna dichiarazione. Infatti adesso ho parlato con Tiberga, il capo della cronaca della stampa, che sì. non virgoletterà nulla. Sì, però scusami un attimo, qui sull'inchiesta online c'è un'intervista. L'inchiesta, non so neanche che cos'è. Ho capito, ti ha chiamato. Ho capito, è un giornale online, una certa Ilaria Puglia ti ha chiamato e ti ha fatto delle domande che sono tutte virgolettate. Sì, peccato che io gli ho detto che non virgolettare nulla perché l'azienda non mi consente di dichiarare. Però scusami, voglio chiederti solo una cosa, Amandola, la cosa è molto semplice. Anche Fassino ha detto che quel servizio è vergognoso. Anche Fassino l'ha detto stasera, il sindaco di Torino, perché offendi i napoletani. Io ti voglio difendere, lo sai perché? Scusami. Perché ho colto in quella domanda che hai fatto la volontà di tirare fuori dai personaggi che tu hai intervistato. Con la maieutica. Di tirare fuori, come dire, non è che sono parole tue, non è che pensi che i napoletani puzzano, no? Mi sembra. Mi sembra ovvio, però ripeto, io sono in silenzio stampa, poi... Noi possiamo parlare, ma tutto ciò che dico tu non lo puoi dire. Vabbè, ma tanto io sono alla radio, sono alla radio, non è che... Siamo in diretta ora. Eh beh, certo, è sempre in diretta. Io smetto di parlare a questo punto. No, però scusa. Ma se smetti di parlare c'è il silenzio. No. Non posso dare interviste, non lo dico per scherzo. No, però Giampiero, scusate, ma perché non puoi dare interviste? Perché chi te l'ha imposta questa cosa? È una scelta aziendale che io rispetto. Di non rilasciare interviste, nemmeno per quello che riguarda la tua, come dire, professionalità, quello che hai fatto, quello che non hai fatto, perché hai fatto quelle domande, per quello che il servizio è stato montato in questo modo. Non nulla, il servizio potete guardarlo, riguardarlo. No, ma l'ho guardato. Non posso dire nulla in proposito. Ma c'è una campagna contro di te in giro da parte della stampa, eccetera. Che non posso dire nulla, lo ripeto. Vabbè. Però fino a ma almeno come stai? Ma come stai? Bene. Stai soffrendo? Hai ricevuto minacce da parte di qualcuno? No, beh sì, ho ricevuto delle mail, ma... Roba normale? Non una quarantina di mail, questa è la fine dell'intervista però. Va bene, d'accordo, ma la sospensione quanto dura? Solo questo, quanto dura la sospensione? È finita l'intervista? No, la sospensione, no. i giorni, dopo chiudiamo. L'intervista? Va bene, ciao Giampiero. Okay, ciao Giampiero. Allora, 800240024 era l'autore del servizio che sta facendo discutere, il quale non può parlare. 800240024, vi ripeto il numero. Marco da Milano, buonasera. Sì, sono in linea? Sì, fino a prova contraria, sì. Se poi lei vuole essere registrata e poi va andata in onda, se vuoi. No, scusate, grande Pareto, grande Cruciale. Un attimo solo, sentiamo il TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. In forte aumento a Taranto la mortalità legata all'inquinamento, quadruplicati i tumori tra le donne, i dati presentati dal ministro Balduzzi. Terremoto dell'Aquila, 6 anni ai componenti della commissione grandi rischi per omicidio colposo plurimo, Barberi sentenza sbalorditiva e terremoti non si prevedono. Letta, miglioreremo la legge di stabilità in Parlamento, Casini serve più equità, Monti aperto a confronto ma saldi invariati, la Fornero contestata a Torino. Italia agli ultimi posti in Europa per la corruzione come Macedonia e Ghana, Monti mina la fiducia dei mercati, batterle è una priorità del governo. Formigoni vara la giunta tecnica con la Lega, braccio di ferro sui candidati, Maroni vince le primarie del Carroccio, Lazio per la Polverini non si va al voto. La crisi del PDL, Cicchitto o Berlusconi o le primarie, ma bisogna uscire dallo stallo, sondaggio del TG3 sulle possibili scelte del centrodestra. Assemblea dei compagni di classe di Carmela, uccisa a coltellate a 17 anni dall'ex fidanzato della sorella, stasera fiaccolata a Palermo, domani mattina ai funerali. Solitaria in Parlamento, stasera incontro in gran paura, fa sul suo volto ha una maschera. La iena, Santanchè, la iena, Santanchè, la iena. Sanno che è invincibile nel dibattito politico, specie quando urla e sbraila. La iena, Santanchè, la iena, Santanchè, la iena, Santanchè. Però vede, io ad esempio c'è un altro caso che voi non ne parlate poco. Io non credo che ci sia differenza tra Fini e Fiorito. Non c'è differenza tra Fini e Fiorito adesso? Sì. Non ha paura. E che Fini e Fiorito mi sembra un po' un'esagerazione, cara Santanchè. È vero che dice hanno mentito come nello stesso modo, ma insomma, Fini come Fiorito addirittura. La trovo una stronzata sesquipedale proprio. La lista forse delle Amazzoni. Ernesto dalla provincia di Napoli, buonasera. Ciao Luciani, buonasera. Dica. Io non sono molto d'accordo sull'atteggiamento che sta avendo nei confronti di quel sì. suo collega giornalista, anche perché mi pare che dall'accento sia piuttosto meridionale, insomma. Sia meridionale come me, qualcosa del genere. Non credo che siano da appoggiare queste interviste con questa gente che dice di queste cose stupide. Ma che quelle siano delle cose stupide, delle cose vergognose, non c'è dubbio. Che uno non le possa rappresentare. Cioè, non è proprio normale che lei appoggi una cosa del genere. Ma io non sto appoggiando nulla, lei non ha capito niente. Lei non ha capito nulla. Lei appoggia questo tipo di intervista fatta a questo emerito coglione di Lecce, perché quello è un ragazzo di Lecce. Ma non lo so di dov'è, non mi interessa. Non mi interessa. Sputa nel piatto in cui mangia, perché lui è più meridionale di me ed è più stupido. Ernesto, nessuno. Scusi un attimo, Ernesto, nessuno sta mettendo in dubbio che quello sia un imbecille. Che quelli che fanno certi cori siano degli imbecilli, non c'è dubbio. Valorare un simile tipo di giornalismo è assurdo. Ma cioè, da lei non me l'aspetto, lei è troppo intelligente. Ernesto, abbia pazienza. Uno può fare un servizio cercando di tirare fuori le cose più becere dette dai tifosi della Juventus all'uscita dallo stadio, e non vedo quale sia il punto. Basta non sposare quelle tesi. Ma no, un attimo, le cioè, lei dice che certe cose non si devono ascoltare? No, assolutamente. Le dichiarazioni che fa il tifoso sono accompagnate da un'altra idiozia che dice il giornalista. No, ma dovrebbe essere preso a calcio in bocca. Perché lui no, dice stia che calmo, a calcio in bocca la violenza. No, stia i calmo. I napoletani vengono. No, perché questo suscita la violenza. Questa roba, questo tipo di atteggiamento suscita la violenza. Ernesto, lui non esprime la propria opinione. I napoletani si distinguono dalla punta. Ma no, ma non è la sua idea, ma non è la cosa che dice lui. Non l'ho capito bene, perché so da quale parte arriva. Siete voi li distinguete signorilmente dalla puzza. Cioè, era riferito a quelli che fanno il coro. Poi può essere detta male, può essere equivoca la cosa, non c'è dubbio, però non è il pensiero di quello. Molto male. D'accordo, ma non è il pensiero. Voleva un commento che diceva: questo è quello che pensi tu, chiaramente io lo riporto per dovere di cronaca. Vabbè, Ernesto, mi sembra che i provvedimenti, addirittura l'accanimento nei confronti, io non voglio difendere, a me non me ne frega niente di difendere i giornalisti, difenderei un metalmeccanico allo stesso modo, e la categoria non mi piace la parola categoria, per cui non voglio difendere nessuno, voglio difendere semplicemente una persona che viene aggredita non per aver espresso un'idea, perché non ha nemmeno espresso un'idea, per aver fatto una domanda un po' per un metodo di sbagliato utilizzato. Io la combatto da ore, punge e poi fugge da me e cerca il posto migliore. Scontro all'ultimo sangue tra Alessandra Moretti, uno dei portavoce, chiamiamola così, della campagna elettorale di Bersani, caro Parenzo, e Matteo Renzi, o comunque chi per Matteo Renzi, il quale scrive: la Moretti ha sexy, carina e come idea anche meglio della Belen. E la Moretti risponde: misogino e maschilista questo sei, quando sei a corto di argomenti che fai, metti in moto la macchina del fango. Vabbè. Mi pare che questi si siano veramente scatenati, ma anche su un livello da Sturmtruppen, diciamo ormai. Renzi: sono in ritardo perché arrivo dalle Cayman, scherza sulla vicenda delle isole Cayman, su cui io do ragione al signor Davide Serra, proprietario di questo fondo che si chiama Algebris, non al 100, al 200%. No, ma certo, ma poi 200%. Ha scritto una lettera, tra l'altro molto bella, pubblicata dall'ANSA, cioè diffusa dall'ANSA sì. L'altro giorno, in cui dice che non tutti i finanzieri sono banditi, e anche quelli che lavorano alle Cayman, o comunque hanno sede alle Cayman, ma lui paga le tasse in Gran Bretagna, sono persone che in qualche caso sono stimabili, caro professor Bersani. Sentiamo. No, ma però c'è una questione molto più sottile. E qual è la questione, sottile? Là già subito lui che si arrabbia. No, dimmi, qual è la questione sottile? Che allora, non ci possono. In Inghilterra si pagano meno tasse che in Italia. Ma qual è il punto? Ma le persone vanno dove si pagano meno tasse? Non hai capito ancora? È normale, è una cosa normale. Che un finanziere trovi un posto dove allocare le proprie. Ma infatti mica è candidato alla presidenza del Consiglio, Davide Serra. Bene, dopodiché uno non si deve stupire che cosa? In una fase come questa. Ma quello è diverso. Io capisco la legittimità della lotta politica, i colpi bassi, si possono sfruttare anche le Cayman. Hai ragione, sì, si possono sfruttare anche le Cayman. Io che faccio il giornalista. C'è stato un errore di comunicazione da parte di Renzi. Non c'è ogni dubbio. Giorno faccio il moralizzatore con il ditino alzato e rompi i coglioni. Quant'è che tu me lo dici, ecco, parla il moralizzatore. E allora? Se un domani scoprissero che io ho preso la residenza a Londra, sì, ad esempio, mi potrebbero fare un no, perché? Che perché? C'entra? Perché non ho capito. Dice, ma scusa, ma Parenzo, che paga dice che vuol pagare le tasse d'Italia. Naturalmente devi risiedere a Londra poi, devi essere basato a Londra. Se sei basato a Londra, qual le è il problema? Tasse in Italia. Ma che c'entra? Paghi le tasse in Italia. Se sei residente a Londra non puoi pagare le tasse in Italia. Ma di che parli? Io penso che se tu sei un finanziere anche con una responsabilità etica rispetto al tuo ma paese. Ma quale etica? Il finanziere? Ma di che parli? Sei paese. Pazzo? Sei completo? Ma chi te l'ha detto? Devi stare per cortesia in questo paese. Ma di che cosa? Cosa parli? Parli di cose che non conosci, di cose assurde, ma quale responsabilità poi è ovvio etica? Che è legittimo andare lì, non è una io cosa... Io dico, è veramente sempre, non sai che dire e ti rifugi dietro questa cosa. No, lo so perfettamente cosa ma dire. Ma non stai... Sai dicendo... Ho messo il mio caso, ho detto se vabbè, io fossi senti, il primo... Non mi va più di parlare di queste stupidaggini che stai raccontando, cioè stai raccontando delle cose assurde, che il signor Davide Serra, secondo te, dovrebbe risiedere in Italia. Cioè dovrebbe pagare le tasse in Italia. Ma dico, ma sei matto? Beh, certo che sì. Ma sarebbe sei matto? Carino. Allora, secondo te tutti gli italiani dovrebbero risiedere in Italia? Tutti gli italiani che fanno affari dovrebbero risiedere in Italia e pagare le tasse in Italia? Non fare il furbo. Un metalmeccanico che va a lavorare in Australia no, perché ha bisogno. Tutti quelli che fanno finanza, se vogliono andare in Inghilterra, secondo te non ci possono andare perché eticamente devono qualcosa diciamo a questo paese? Che spesso gli uomini che fanno finanza, non sarà il caso di Serra, hanno delle residenze all'estero. E allora? Come mai? E allora? Come mai? E allora? Come mai? E allora? Spesso non e è allora? Il caso del mio amico Serra, ma che allora? Abbraccio fortissimo. No, Serra risiede a Londra, credo. Allora? Bene. Allora? Anche non ho capito. Sta all'estero. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Non no, ho capito. Ma non è un problema. Ma non quale è responsabilità reato, etica? Ovviamente. Ma di che parli? Nessuno. Stai dicendo delle robe senza senso. Va bene, se a te piace che le persone prendano. Sì, mi piace, sì. Certo, è il mondo globalizzato, vanno dove sì. Ci sono meno tasse, è normale. Bene. Se no è un mondo diverso, è un mondo comunista, bene, è un mondo statalista. Però la zanzara da Radio Montemonte. Ma allora, falla finita. Giorgio da Belluno, fammi sentire Giorgio. Anzi no. Antonio da Milano, buonasera. Stupidaggini, guarda. Antonio Pronto? Da Milano, sì. Io ci sono, mi sente? Sì, dica. Buonasera, salve. Le premetto che io ho chiamato all'apertura della trasmissione, poi non so come si è Antonio, sviluppato. Antonio, è uguale, lei sì. Può parlare di quello okay, che vuole, d'accordo. Non mi faccia il riassunto. La chiamo in riferimento al servizio fatto dalla RAI sì. E alla sospensione adottata nei confronti del giornalista. Io sono parzialmente d'accordo con lei, nel senso che non trovo giusto il provvedimento della RAI, per un semplice motivo. Che il provvedimento della RAI non può colpire esclusivamente quel giornalista. Se ha sbagliato quel giornalista, e poi tra un attimo le dico la mia opinione, non è stato da solo, c'è stato chi ha montato il servizio, chi ha fatto la ripresa, chi ha autorizzato la trasmissione. Chi ha fatto la ripresa, chi ha fatto la ripresa è quello che conta di meno. Intendo dire il team. Ma il team di che? Alcuni eseguono delle cose, cioè... Certo, perfetto, ci sono io non ho capito, Antonio, lei sì. Pensa che la responsabilità di chi... Non c'è giornalista. D'accordo, è di chi ha messo in onda quel servizio chi perché se d'accordo, perché secondo lei in quel servizio ci sono delle frasi offensive nei confronti di Napoletani, giusto? Secondo me non si può giocare sul frainteso, perché io non vedo il motivo per cui debba credere nella buona fede di chi l'ha messo in onda quel servizio durante la partita, dove che allo stadio c'è gente più o meno buona, più o meno brava, più o meno cattiva. Vabbè, che ascolta durante la partita, fuori luogo, semplicemente fuori luogo. Vabbè, non va fatto. Non deve pagare solamente quel giornalista. Grazie Antonio. Simone da Varese, buonasera. Ah, buonasera, finalmente. Senta, no, mi ricollego al discorso che è stato appena terminato. Sono in parte con la sua opinione riguardo al giornalista, in parte posso capire la RAI, perché comunque deve rapportarsi a un'utenza a livello nazionale, per cui è un provvedimento necessario. D'altra parte avrei un'altra soluzione da suggerire alla RAI. E qual è? Terminare il giornalista per uno stage a Napoli per qualche mese, al mattino magari. A lei vorrebbe mandare quel giornalista al mattino, ma questo giornalista, dopo quello che è successo, non avrà vita facile a Napoli. È il bello, solo un bel training di qualche mese da quelle parti, magari. Grazie Simone. Marco da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Dottor Cruciani, lei è un pazzo se difende questo giornalista. Ma io non sto difendendo... Bravo. Marco, io non sto difendendo nessuno. Io sto difendendo... Sì, sì. No, lei non può difendere a spada tratta, perché lei ha detto che lo difendo, sì, a spada tratta. Sì, ma io lo difendo, io lo difendo a spada tratta perché non ha fatto nulla di strano. Ha semplicemente fatto una porcata. Perché? Ha fatto una porcata. Perché? Perché? Perché io, e non lo farò mai, dovessi uscire domani e dire via il nazismo, piombo, lavali col gas, nazismo, lavali col, sì, gas, qualcuno ti offende. Oppure se io vado a vedere una partita di Bologna e dico terremoto, lavali col sangue, qualcuno si offende, sei un pazzo, un criminale. Io non lo farò mai. Se lei difende questo atteggiamento, no, lei, scusi, scusi un attimo, lei che cosa contesta? Il fatto che sia stato mandato in onda un servizio dove ci sono delle frasi offensive nei confronti dei napoletani? Io no, io questo vorrei capire. Cose. Vabbè, ma ne contesti una, lasci perdere moltissime cose, ne contesti una. Sì, il fatto che praticamente viene mandato in onda un servizio così osceno a danno dei meridionali e a danno in particolar modo dei napoletani. Voglio vedere se verrà squalificato lo stadio, come quando noi napoletani... Ma che c'entra la squalifica dello stadio? Non c'entra niente la squalifica, su. C'entra, perché c'è anche una questione... Ma lasciamo perdere la questione calcistica. E qui stiamo parlando di un'altra cosa. C'è un servizio che viene mandato in onda sulla RAI regionale del Piemonte, in cui ci sono all'interno dei tifosi che vengono intervistati, i quali... tifosi dicono delle cose, ripetono delle frasi offensive. No, non sono cose gravissime. Lui non può assolutamente mai permettersi di dire che difende una persona. Lo vogliamo rimettere in onda questa parte di servizio, anche se andrebbe ascoltato tutto. Rimandiamo in onda un attimo. Rimandiamo in onda sul servizio. Non è questo. Ah sì, sono ovunque, quindi... No, rimettetelo dall'inizio. Giampiero Mandola è andato intorno alle 16 ai cancelli a sentire i tifosi. Oh, Vesuvio Navali tu! I napoletani sono ovunque, quindi non è che possiamo considerare sud, centro, nord, sono ovunque, un po' come i cinesi. E voi li distinguete dalla puzza con grande signorilità. Sì, molto, sì, elegantemente, sì, sì. Certo. Allora, frasi di questo tipo, offensive come quella iniziale, per esempio, o Vesuvio, lavali tu, che è una frase orrenda, terribile, terrificante, probabilmente andava tagliata, non andava messa, ma è un servizio su come i tifosi della Juventus, una parte piccolissima per fortuna dei tifosi della Juventus... E allora ci sarebbe dovuta essere una premessa ben fatta, ben chiara, ok? E non lasciare in modo totalmente libera un'espressione del genere. E dopo la premessa anche una conclusione. Sì, scusi una... Passare questo messaggio come il delirio di una parte della tifoseria juventina, la si deve presentare, bisogna fare una premessa decisa, sì, e dopo fare una bella parentesi anche di... Sì, ho capito, ma quello di non diventa un servizio, diventa una sorta di enciclopedia. Se in grado di fare il proprio lavoro, allora si vada a scopare la strada, perché le strade in Italia sono sporche, non soltanto a Napoli, anche... Ma sì, ma questo è indubbio, ma non lasci perdere, ma non stiamo parlando dell'oggetto che è demenziale, è evidente che l'oggetto è demenziale, qui non è in discussione il tipo di coro, se è giusto o sbagliato, è evidente che è un coro becero, no? È un coro becero, tutto sta nel dire... è possibile far sentire queste frasi all'interno di un servizio sui tifosi fuori dallo stadio? Secondo me sì, non c'è niente di strano. Assolutamente no. Tra l'altro mi auguro che verrà presa una sanzione sportiva. Vabbè, questo no. Ma che c'entra la sanzione sportiva? Ma chi se ne frega? Grazie, Giordano da Brescia. Sono Giordano. Io chiamavo perché... Non si sente nulla. Antonio da Salerno. Buonasera, volevo dire che a Roma hanno risolto un problema al Quirinale, sì, perché erano più o meno 7 anni che sentivano una puzza nel palazzo e non capivano che cos'era. Adesso finalmente hanno risolto il problema, hanno capito che cos'era, era il presidente. E poi io le volevo chiedere se invece di dire i napoletani avesse detto i tedeschi, i francesi o ancora più gli ebrei puzzano. Ma non lo voleva dire lui, non è una frase, non è una frase che ha pronunciato lui perché esprime il suo pensiero, la voleva e stava raccontando un coro dei tifosi, Ha interpretato il pensiero del tifoso. Ma no, perché aveva sentito dei cori e stava dicendo, ma voi allora descrivete così, parlate della puzza molto signorilmente, era una cosa ironica, magari è venuta male, ma non si può crocifiggere una persona perché dice una frase di questo tipo, mi sembra una follia, forse si può contestare l'impianto del... Ma si entra in una dinamica abbastanza strana, no, cioè quella di contestare il tipo di servizio che è stato fatto, ha capito? La roba singolare è che... chi, qualcuno avrà visionato questo servizio. Ci sarà ma un sì, ma ci sono delle frasi che quando, tu non lo sai, ma quando uno sente dei tifosi che sono radunati, anche nelle televisioni a pagamento, Sky o Mediaset eccetera, ogni tanto dietro i telecronisti si assiepano dei tifosi. Vabbè. E quei tifosi ne dicono di tutti i colori. Non è che succede quasi sempre, magari questa volta l'hanno detta più grossa, hanno pronunciato una frase più pesante, quella sul Vesuvio, Lavali eccetera, ma succede sempre. Se uno fa parlare i tifosi fuori dallo stadio, fuori da uno, da un campo di allenamento, ne può sentire di tutti i colori, non è una cosa strana, non è una cosa bizzarra. Eliminiamo questo tipo di servizi, quello è un altro discorso, e forse sono anche d'accordo, eliminiamoli, perché a un certo punto spunta uno che ne dice, cioè che la spara grossa. No, ma lì non capisco, sta pagando soltanto il cronista che ha fatto il pezzo e non chi l'ha autorizzato. Ma no, vabbè, però ci sarà un'inchiesta. Renzi contro Bersani sulle Cayman, dichiarazione allucinante, autogol di Bersani. E suona con maestria l'arpa. Ceausescu, Ceausescu. Se uno dice io non parlo con tutti quelli che lavorano con il diritto delle isole Cayman, segnalo che vuol dire non parlare con tutti gli investitori internazionali che comprano i titoli del nostro debito pubblico. Nel caso di specie la dichiarazione di queste ore è veramente allucinante e credo che sia stata un gigantesco autogol. Tra l'altro, per quello che riguarda i rapporti tra la finanza e il mondo della sinistra, ci sarebbe da discutere a lungo, eh? Ci sarebbe da discutere a lungo. Già l'hanno fatto altri in maniera molto più autorevole. Cioè? No! Un attimo solo. Napoli Prefettura. Sì, buonasera, vorremmo parlare con l'eccellentissimo professore maestro, il prefetto di Napoli. Lei chi è, mi scusi? Sono Giuseppe Cruciani da Radio 24, buonasera. Deve essere funzionario di turno perché sua eccellenza non c'è. Sua eccellenza non c'è, eh? Scusi un attimo, ma la segreteria me la può passare? Non so se a quest'ora ci sta qualcuno in segreteria, un attimo. Un attimo, grazie, sì. Sua eccellenza! Sua eccellenza! Aspetta che adesso lo teniamo, no? Vai, vai, vai tu. Sì, Viminale, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, Parenzo. Cercavo sua eccellenza il prefetto. No, sì, è la segreteria, ma il prefetto... Dov'è sua eccellenza? In alloggio, lei chi è? Parenzo, Parenzo. Parenzo, dottor Parenzo. Eccoci. Aspetti un attimo che le passo... Magari riusciamo a recuperarlo, no? Sì, attendo un attimo. Sì. Passo il collega che le dà informazioni migliori. Molto bene. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, prego. Qui è Radio 24, sono Cruciani. Cerchiamo il prefetto, sua eccellenza. Lo deve cercare tramite centralino perché non è nello studio. Non è nello studio, ma lei è la segreteria, scusi. Questa è la segreteria del prefetto. Ah, salve. Ma lei ha fatto il diretto e è passato tramite centralino? No, è il centralino. Siamo a top, Sì, le ripeto, solo il centralino, perché il prefetto non è in studio, quando non è in studio solo il centralino le può passare il prefetto. No, ma dico, col prefetto stiamo al top comunque. No, però voglio dire, il prefetto, noi siamo passati dal centralino. Sì. Sa il centralino, quello là di Napoli, la supercasino, quello là, no? Giusto? Il nostro centralino. Il vostro centralino, sì. Siamo passati dal centralino e il centralino abbiamo chiesto alla segreteria. La segreteria di sua eccellenza. Eccola qua, questa è la segreteria. Di sua eccellenza. Sempre di sua eccellenza, no? Perfetto. Sì, scusi un attimo. E allora la segreteria ci dice di ripassare per il centralino di sua eccellenza, mi sembra strano. Allora, mo le spiego, non le sembra strano, te le sto dicendo. Sì. Quando il prefetto non è in studio, noi non abbiamo possibilità di comunicare con il prefetto. Che dobbiamo fare noi con sua eccellenza? Solo il centralino è in grado di poterle passare il prefetto se il prefetto può parlare con voi. Ah, no, io certo. Da qua non posso, perché io da qua posso passare le comunicazioni solo nello studio del prefetto, se il prefetto è nello studio. È nello studio, io da qua ho capito. Sono impossibilitato proprio come mezzo di comunicazione. No, ma voglio capire, questo è interessante, cioè se lei, anche per i fatti suoi, deve parlare con sua eccellenza e sua eccellenza non è nello studio... No, quello lo chiama al telefonino, che c'entra? No! Scusi, ma questa è la notte di domani intervista, o era no. Io le ho risposto alle due domande, lei no, non d'accordo. È che devo andare oltre. No, io no, vabbè. Se deve comunicare col prefetto, il prefetto dello studio non c'è, le passo il centralino e poi il centralino... Va bene, perfetto, allora richiamiamo il rispondo a tutte le sue domande. No, per carità, richiamiamo il centralino, va bene? Prego, arrivederla. Grazie, buonasera. è caduta la linea, vabbè, è normale. Sua eccellenza sempre, eh? Capito? Sua eccellenza si chiama in realtà, non si chiama nemmeno dottore, professore. Sua eccellenza. Beh, certo, è un prefetto. E no, non lo sapevo che si dovesse chiamare sua eccellenza. Perché, come signor te... sua eccellenza. Ma perché ridi? Perché tu vai a Buckingham Palace, cosa la, come la chiami la sua regina? Eccellenza. Ok, dove è la regina quella? Come la chiami? Non il prefetto di Napoli. Se tu vai da Napolitano, cosa gli dici? Ciao di Napoli, Giorgio. Di Torino, uguale. Che gli dici? Ciao Giorgio. Se vai da Fini, che gli dici? No, ma ho Gianfra, capito. Ma rimortacci tu, gli dici, buongiorno. Vabbè. Presidente, no? Paolo da Roma, 800 24 00. Tu, non richiamiamo sto centralino un attimo. No, ma dico, non hai avuto un'educazione di base, è strano, perché ma d'accordo, è una persona così. Però mi ha dopo questa performance del prefetto contro il povero parroco, mi è sembrato strano che il centralino subito sua eccellenza, capito? Certo. Vabbè. Paolo ma da Roma. Si chiama così il protocollo. Sì, Paolo, dica. Non ho chiamato perché praticamente qua ci indigniamo di cose quando il mondo del calcio fa schifo tutto. Prefettura di Napoli, buonasera. Sì, buonasera. Volevamo il signor prefetto, sua eccellenza. Si chiama così, no? Pronto? Sì, il prefetto, come lo vuole chiamare? No. Che ne so, qui c'è... Ti devo annunciare, prego? Sono Cruciani, Radio 24. Un attimo, prego. Grazie. Ma no, però la segreteria non risponde, dice che non c'è in segreteria, bisogna che ce lo passi per telefono. Un attimo solo. Sì, perché la segreteria ha detto di ripassare per il centralino, il collaboratore del prefetto di sua eccellenza, ha detto che bisognava ripassare dal centralino perché non aveva la possibilità di collegarsi, ha capito? Va bene. Grazie. Quindi mi ripete la testata giornalistica? Cruciani, Radio 24. Radio Crucia. 24, sì. Solo. Signor prefetto. Beh, siamo al top, eh? Stiamo andando al top, stiamo andando a toccare i gangli dello Stato. La segreteria, eh? Sua eccellenza il prefetto di Napoli. La riconosci? Eh sì, no, che cos'è questa musica? No. Proprio una cultura di base bassissima. Non mi ricordo cos'è questa cosa qua. Pronto? Sì, buonasera. Guardi, purtroppo sono spiacente, ma Sua Eccellenza sta rientrando da Roma e non riesco a prendere la linea. Non riesce a prendere la linea? No, dovevo fare un ponte e non ci riesco. Il ponte non riesce, vabbè. Senta, ma per curiosità, sì, come si può fare a mettersi in contatto con il signor prefetto? Tramite nel centralino oppure tramite la segreteria, normalmente. Sì, certo, possiamo richiamare. Ma adesso è un caso... È un caso? È un caso particolare, insomma, non è in ufficio, quindi diciamo in macchina, se non prende la linea. Se non prende la linea, magari riproviamo tra 10 minuti, che dice? Va bene, noi qua stiamo. Ma si usa ancora la dicitura comunque sua eccellenza per dialogare con il prefetto, giusto? Che io sappia, sì. Cioè è quella la formula giusta? No, tanto per capire... No, non chieda a me, guarda. No, cioè quando lo dobbiamo chiamare, come dobbiamo chiamarlo? Perché sa che c'è una piccola polemica su questo, no? Sì, sì, infatti. E noi siamo un po' preoccupati, nel senso che se io poi lo chiamo... No, io non lo chiamo... Dire sbagliare bene, la forma. Va benissimo, signor prefetto. Signor prefetto. Signor prefetto, magari se diciamo, signor prefetto, sua eccellenza, forse siamo più educati. O no? Che dice lei? Non sa a me dare un giudizio. No, mi vabbè, solo lavorare. Lei come lo chiama? No, ma lei non c'entra niente, si figura. No, ma lei che c'entra? Ma lei non c'entra. Ma lei come lo chiama? Che ne so, prefetto, signor prefetto, sua eccellenza, come lo chiama? No, io lo chiamo signor prefetto. Come signor prefetto, vabbè. No, perché magari sa... noi per sicurezza lo chiamiamo signor prefetto, sua eccellenza. Sì, è meglio. No, è meglio. Vabbè, ma voi siete giornalisti, siete sicuramente più abili di me. Che fanno i cori? Io però non capisco, non capisco perché tu non capisci, ma in verità non mi dovrei stupire. Cioè qui si sta discutendo anche la forma. Cioè tu dici è inutile stare là a vedere il dettaglio eccetera. Stai fuori... facendo un discorso di mera forma. Allora, se quel servizio era oggettivamente sbagliato, non deve pagare soltanto il collega che l'ha scritto, ma anche il direttore responsabile della testata, perché siccome si parla di televisione, quindi qualcuno lo avrà montato, cioè sì, il giornalista. Sì, ho capito. Qualcuno lo avrà visto. Ho capito. Ora, tu difendi a prescindere il testo di quella roba lì. No, io difendo il fatto che uno possa fare una domanda anche scherzosa, giocando sulla questione della puzza, semplicemente perché vuole tirare fuori il peggio dai tifosi. Io difendo anche questa tecnica. Possiamo... No, dopodiché la colpa del razzismo non sarà mica di quel cronista Mandola di Torino. No, certo, ma Raymond Queneau insegna... Ma che c'entra Raymond Queneau adesso? Esercizi di Raymond Queneau. Cioè, ci sono degli... Ma perché io devo sentire Raymond Queneau alle 20.01? Voglio sentire invece il sindaco di Verona Tosi. Buonasera. Un attimo, buonasera a voi. Come sta, sindaco? Bene, grazie. Allora, che è successo con Celentano lei, che lei, hai avuto? Aspetta, mamma mia, Celentano, che c'entra Celentano? Volevo complimentarmi con l'amministrazione perché con Celentano. Che c'entra Celentano? Tu vuoi sempre lisciare il pelo come no, al solito? No, complimento. Vabbè, che appunto, cioè lisci il pelo come al solito. Scusi, sindaco, però sì. Lei il prefetto come lo chiama? Sua eccellenza o lo chiama in un altro? Perché abbiamo capito che vanno chiamati sua eccellenza i prefetti. Lei il prefetto di Verona, per esempio, come lo chiama? Io la chiamo Perla perché abbiamo un rapporto, ci chiamo del tu, si chiama Flavio, la chiamo Perla. Ah, perché Perla è di nome? Esatto. Perla. È pure, carina, è una donna. Perché io vado d'accordo con il mio partito. Eppure di Napoli, mi sa che si chiama Perla, meridionale o no? È di Napoli, esattamente. Beh, perché Perla è un nome napoletano, esatto. Esattamente di Napoli. Il sindaco veronese e il prefetto napoletano vanno d'accordo, io la chiamo Perla, dunque non c'è bisogno di chiamarlo sua eccellenza. Lavoriamo bene assieme, sì. Quindi non vedo perché. Però, sindaco, se lei va a una cerimonia pubblica davanti ma ai quello il prete non era in una cerimonia pubblica, il prete lì era in un discorso, è un prete di battaglia, non è che deve rivolgersi al prefetto dicendo sua eccellenza, ma dottore, certo. Eccetera. L'ha chiamato signora, tra l'altro, il prefetto di Caserta. Non mi sembra una cosa scandalosa, no? Tosi. Io parlo per il mio prefetto. Il mio prefetto non avrebbe nemmeno alzato la polemica. Ma sì, su, dai. Ma infatti il prefetto di Caserta, la signora, non è lei che l'ha alzato la polemica, è il prefetto di Napoli che si è sentito offeso da questa signora, una cosa ridicola, su. Invece Tosi se l'è presa, credo per la prima volta, con i suoi tifosi, i tifosi del Verona, per quello che è successo. No, io non me la sono presa con i miei tifosi. Beh, con quelli, con quelli. Con 20 deficienti, sì. Che per fortuna non sono i miei tifosi. Beh, sono anche tifosi del Verona, come no? Vabbè, ho capito, ma se su decine di migliaia di tifosi che ha l'Hellas, 5.000 che tutte le domeniche quando il Verona gioca in casa vanno in sud e quando posso ci vado anch'io. Poi all'interno di queste migliaia e migliaia di persone, 20 deficienti restano 20 deficienti. Però non è che gli altri, anche a parte che quelli che cantano certi cori non sono solo 20 come lei sa bene, ma sono, cioè non sono 5.000 ma sono in realtà un centinaio. Guarda, tutti i mass media, tutti tranne lei evidentemente, concordano nel fatto che erano una ventina di persone quelli non quelli dei cori, non dicevo quelli dei cori nella vicenda. Beh, mi pare che lei stesse dicendo quello. No, sto dicendo allora Mari rettifichi quello che ha detto. No, io ho detto chi fa i cori beceri in generale, non ci sono solo i cori contro Morosini. I cori beceri in generale ci sono in tutti gli stadi, il problema è cosa si canta e entro quali limiti si sta, perché lo stadio è lo stadio e non è il teatro dell'opera. Il problema è che quando si va sempre personalmente, come in quel caso, un ragazzo che è morto tragicamente, certo. E i suoi familiari ancora di più, perché ovviamente immagino come si saranno sentiti, lì si passa decisamente il limite. Però scusi, lei sta facendo una differenza per esempio tra i cori contro i napoletani, che pure ci sono nella curva del Verona, e i cori contro Morosini. C'è una differenza secondo lei, giusto? Io dico che è una cosa enormemente più grave l'aver offeso un ragazzo che non c'è più, e quindi è un'offesa personale, e una famiglia, i familiari di quel ragazzo, è d'accordo, che abbiano vissuto malissimo quel tipo di episodio. Certo. Gli sfottò fra tifoserie che ci sono sempre stati e sempre ci saranno, è un'altra cosa. Cioè gli sfottò contro i napoletani si possono consentire? I napoletani o contro i meridionali? Le ricordo che una parte della tifoseria del Napoli devastò la stazione, cos'era stata? Di Roma o di Napoli quella volta? Però questo ovviamente lei non lo cita. No, ma io non è che non lo cito, si figuri. Allora siamo sugli episodi, anziché cercare di tirare in mezzo un'intera città o un'intera tifoseria rispetto a un episodio. Perché se generalizziamo, allora andiamo a parlare di quello che succede a Milano, di quello che succede a Torino, di quello che succede a Catania. E allora parliamo di quello. No, ma non bisogna mai generalizzare, però io sono convinto che gli stessi che hanno pronunciato quelle parole nei confronti del giocatore del Livorno morto, probabilmente sono gli stessi che lei quando va in curva, non dico che frequenta, per carità, con gli stessi che cantano con lei certi cori, eccetera, eccetera. Secondo me sono esattamente gli stessi, magari una parte più ristretta, ma sono le stesse persone, non è che sono diversi. Ma guardi, è perché appunto lei continua a parlare di quelli che vanno allo stadio a Verona. Se parliamo di tutte le tifoserie d'Italia, ma di quelli si sta parlando? Parliamo di tutte le tifoserie d'Italia. Ma certo, i cori beceri ci sono ovunque, non c'è dubbio, ha visto a Torino. Allora parliamo di ma certo, allora, se parliamo in questi termini finalmente, e quindi Verona come tutte le altre tifoserie, ci sono sicuramente dei cori che talvolta eccedono sicuramente il limite di quello che sarebbe il normale tifo da stadio. Però qui stiamo parlando di un episodio che è quello del povero Morosini, certo, che è un'altra, che purtroppo è tutta un'altra cosa. Lei poi che farebbe a questi tifosi? A questi tifosi qui, quelli di Morosini, sto dicendo. Ma, l'abbiamo già reso pubblico. Una parte la farà la magistratura individuandoli e non perseguendoli. Nel momento in cui questo avverrà, il comune si costituirà parte civile sì, chiedendo sì loro i danni e devolvendo in beneficenza gli eventuali proventi. Ma qualcuno parla di ritiro della tessera del tifoso, non sarebbe il caso di chiudere quel settore per un po' di tempo dopo quello che è successo? Di chiudere quel settore per un po' di tempo come gesto, chiudere la curva? Chiudere una curva dove vanno 5.000 persone per il gesto di 20 deficienti. Beh, guardi che... qualche segnale ci vuole. Qualche segnale magari forte ci vuole o no? Venne chiusa la curva del Catania dopo l'omicidio Raciti. Beh, ma secondo me andrebbero chiuse, io l'ho detto anche all'epoca. O venne presa una misura per tutto lo stadio di calcio italiano. No, ma io sono d'accordo sul fatto che bisogna prendere... Lei non è d'accordo, lei sta cercando, come si fa spesso, la città di Verona... No, ma la città... Ma che c'entra la città, sindaco? La città non c'entra. La tifoseria del Verona non è né meglio né peggio di quella di Firenze, Livorno, Roma. Ma nessuno infatti pensa al contrario. Bari, Palermo, perfetto. Allora, poi se ci sono dei comportamenti che vanno oltre le righe, che sono decisamente da deprecare e da colpire, come questi, di questi parliamo senz'altro. Scusi, ma non sarebbe il caso, per esempio, che lei dicesse, non so, non vado più in curva finché non si fa chiarezza su questa storia? E perché devo andare a colpire, ripeto? No, lei. Io. No. Dovrei io andare a prendere delle distanze da una curva di 5.000 ragazzi, ragazze, ragazzini, persone di 50 anni, di 60 anni, rispetto al comportamento di 20 deficienti. Sarebbe bisogna dare un segnale alle volte. Le colpe collettive e le condanne collettive portano di solito a nessun risultato. Ma infatti io sto dicendo che lei... No, vanno colpiti loro singolarmente. D'accordo. Hanno sbagliato e vanno colpiti singolarmente. Lei potrebbe se uno passa con rosso, lei dà la multa a tutti quelli che abitano nella sua via. Ma chi fa un coro è condannabile, secondo lei? Chi fa un coro di questo tipo? Per quale tipo di reato è condannabile? Ma questo, evidentemente, io non sono un magistrato e io faccio il sindaco e non Cioè, se uno dice devi morire, come succede negli stadi, no? Devi morire allo stadio, penso che lo si senta. Appunto, dalla dico. Notte dei tempi, anche nelle partite di strapaese. Certo. No. Esattamente. Altrimenti uno va all'opera e allora sicuramente non sente i cori da stadio. Insomma, io voglio dire, sindaco, andando in curva, lei... No, guardi, sono molto serio su queste cose. No, certo, lei... No, mica... Discute le implicazioni. No, ma... Allora, evidentemente, se si volesse trovare un capo di imputazione, l'oltraggio ci sta tutto, evidentemente. L'oltraggio, le dice, l'oltraggio. Anche quando uno dice devi morire è una cosa oltraggiosa nei confronti di chi sta per terra. Io parlo del caso di Morosini. Non parlo dei cori da stadio. Se lei vuole chiudere gli stadi, quella è una proposta tutta no, sua. No, chiudere gli lei stadi. Dovrebbe, le curve, sua, le curve. La sua logica, non so se sia logica provocatoria. No, perché la domanda che mi faccio è se lei ci è o ci fa. No, ma sì, a questo punto, perché diciamo che allo stadio non si parla più. No, ma le curve vanno gestite, però ci vogliono anche dei gesti. Cioè, esemplari. Il fatto di andare, il fatto che lei, per carità, io lo trovo assolutamente legittimo, però dopo quello che è successo, se lei dicesse io per un periodo, finché non si fa chiarezza su questa storia, su chi sono e chi non sono, non vado più ma in curva. Ma questa storia verrà chiarita perché la magistratura lì. Cioè, lei continuerà ad andare in curva, se è il caso, continuerà ad andare. Ma certamente. E se si accorgesse che gli stessi signori andare per strada in macchina, poi se uno passa con rosso è colpa sua, mica è colpa mia. No, d'accordo, se lei si accorgesse che gli stessi signori che hanno pronunciato queste frasi sono magari quelli con cui lei parlava ogni tanto qualche andava in curva, la cosa non le farebbe nessun effetto? Cioè, se io nell'ambito di una curva di 5.000 persone, se ci sono anche quei 20 deficienti in una curva di 5.000 persone, questa è la domanda. No, ma ho capito. Cioè, vuol dire, probabilmente quelle persone lì sono tra le persone che sono lì in prima fila della curva. No, se lei va lì, probabilmente sono le stesse persone che lei ha visto con cui parla. Secondo me, ripeto, io capisco che lei si diverta a provocare, ci sta, vero? No, appunto. È ironica, ma lei capisce cosa sono 5.000 persone e lei parla della prima fila, non è il teatro. È un luogo dove stanno 5.000 persone. Comunque quelli che fanno casino di solito sono molto meno di 5.000. Senta, ma i cori da stadio coinvolgono anche tutta la curva. Ma lì, sono adesso le faccio una domanda da stadio, no, certo, sono offensivi, certo, decisamente eccessivi e oltraggiosi come questi, per fortuna coinvolgono 4 deficienti. Certo. Senta, ma le faccio una cosa, una domanda un po' provocatoria, ma non sarebbe anche divertente, se vogliamo, ma non sarebbe, non sono meglio un po' i tifosi del Chievo, che sono un po' più civili, tranquilli, non succede mai nulla, non si alza mai una polemica sulla curva del Chievo, sui tifosi più del educati. Chievo? Sono più educati, su. Diciamo che la tifoseria del Chievo è sicuramente una felice eccezione in tutto il panorama del calcio italiano. Senti com'è diplomatico. Ma ci sono anche i suoi motivi. Perché mentre la tifoseria dell'Ellas è una tifoseria storica, di una squadra pluridecennale, e invece? Che deve essere, credo, la sesta tifoseria con il numero di abbonati in Italia. Ma sa quanto mi è simpatica la tifoseria del Verona a me? Quello che c'entra. Cioè, no, ma sto dicendo, quindi la tifoseria del Chievo è un'assoluta eccezione, perché è una squadra che... Cioè, da prendere esempio, cioè i tifosi del Verona devono prendere esempio da quelli del Chievo, sì o no? Ma non è questione di prendere esempio, un po' sono, sì. sono due fenomeni diversi. Come comportamenti, dico, come sono comportamenti. Sono due fenomeni completamente diversi, non si può paragonare la pioggia con l'uragano, sono le cose diverse. Vabbè, ho capito, però da questo punto di vista devono prendere esempio. No, un po' sono più educati. Sono un po' più educati, su, dai, questo si deve ammettere. Ma perché la tifoseria si vuole... pensa di paragonare come fosse la tifoseria media quella del Chievo. La tifoseria media è quella di Milano, Torino, Verona, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e chi più ne ha più di metà. E poi c'è un unicum a livello nazionale tra le squadre della massima serie, che è la tifoseria del Chievo. Però scusi, io le faccio sentire una canzone, no? Le faccio sentire una canzone e poi mi dica lei se non è offensiva, se è offensiva o no. Una canzone che fu quella degli Schiantos. Quella degli Schiantos, cantata alla presentazione del Verona dall'attuale allenatore Mandorlini, e lei era lì presente, che era, non era certamente, per carità, non è che sia la fine del mondo, però insomma qualche elemento di offesa uno lo poteva anche ricavare. Sentiamo. Lei era in prima fila lì, dire sono due cose diverse naturalmente rispetto a quello che è successo con Morosini, però anche questo in teoria può essere una cosa offensiva, no? Un po' sì. Ma vede, proprio per questo a Verona ogni tanto noi percepiamo quello che viene da ambienti dei mass media, una parte evidentemente, mica da tutti, una strumentalizzazione di quello che accade. Perché per darle completezza di informazione, quando Mandorlini cantò quella canzone, aveva sotto braccio Maietta. Sì, che era uno dei meridionali. Sì. Orgogliosamente meridionale, amatissimo dalla tifoseria dell'Ellas. Cioè, Terrone si può dire, secondo lei? Amatissimo dalla tifoseria dell'Ellas, e Mandorlini lo fece in modo scartoso in quel contesto. Cioè, Terrone si può dire anche per scherzo? No, poi c'è chi, come lei, prova a strumentalizzare. Ma non sto strumentalizzando, su. Dove Mandorlini scartava con Maietta. Ma non sto strumentalizzando. Persona meravigliosa, amatissimo dai tifosi dell'Ellas e orgogliosamente meridionale. No, ma lo so benissimo. Io non sto dicendo che siete razzisti, che la città è razzista e che Mandorlini è razzista. Sto dicendo... a strumentalizzare degli episodi che non c'entrano nulla. Ma io, si figuri, guardi, io vengo poi, a Verona. Ormai, se vuole segnalare il pezzo degli Schiantos alla procura in quanto, ma si figuri, nei sensi della Mancino lo può fare. No, ma si figuri, dico che Terrone anche in senso scherzoso si può dire, in questo senso. Beh, guardi, se uno lo fa con ironia come a me, possono dare del polentone, mica me la prendo. Quando la zanzarita tormenta la mia noche, pasa en blanco, mañana yo soy estanco, como una muchachita, baila con ritmo bueno, no le importa mucho, si no prendo sueno, no le importa mucho, si no prendo... Eccoci qui, Paolo da Roma, 800240024, Paolo, vogliamo richiamare il prefetto di Napoli? Sì. Beh, per forza, Paolo intanto, vai. Eccellente. Sì. Ciao Cruciani, grazie della chiamata. Prima di tutto grazie perché mi piace moltissimo la trasmissione. Comunque volevo dire che tu tutto sommato non hai torto a dire che il giornalista va difeso, perché tutto questo è il calcio che è così becero, che lui ha voluto semplicemente indicare che il calcio è becero. Io sono napoletano, noi io quando vado allo stadio mi vergogno della gente che vedo intorno a me. Ci sta gente, cioè questi hanno devastato, il 2000 hanno devastato uno stadio, parliamoci chiaro. Vabbè, le devastazioni ci sono ovunque, su, adesso non c'entra nulla con... Non è che se si parla di un argomento si deve andare a parlare su un altro argomento, le devastazioni le fanno tutti, su. Ho capito, però noi non puzziamo sicuramente, però ormai il mondo che ci siamo creato è un mondo di così, di gente becera. Guardi, il punto è molto semplice, bisogna decidere di non mandare in onda certe cose, se uno vuole. Una cosa diversa è una trasmissione come questa, in cui ogni tanto arrivano dei mostri, parlano, ne dicono di tutti i colori, però noi siamo qui, non è che montiamo un pezzo, siamo qui a ribattere, a far parlare, oppure a dire la nostra... È un altro... bravissimi a farle dire anche certe cose. Sì, no, ma è un altro discorso, però. È chiaro che quel mostro, quello era un mostro, quello che stava là in televisione. Magari... Un attimo, la prefettura di Napoli. Prefettura di Napoli? Sì, buonasera, cerchiamo il prefetto, Sua Eccellenza. Lei è? Sono Cruciani, Radio 24. Guardi, il prefetto non è raggiungibile perché è fuori sede. Se vuole, le posso passare l'addetto stampa. Eh no, perché ce l'hanno passato prima, ma... Ma è ancora non raggiungibile il prefetto. Non è raggiungibile, no. Se vuole le posso passare il funzionario di turno, l'addetto stampa. No, è l'addetto stampa, ci abbiamo parlato prima. Però forse il funzionario... Chi è il funzionario? Le passo il vuole il funzionario di turno? Ma parliamo un attimo col funzionario, perché anche lui è... Sì, grazie. Prefetto, sì. No? Lo vuole? Sì, grazie, sì. Grazie. Funzionario di turno. Che è il numero 2 del prefetto, praticamente. Boh, no, non credo. Sì. Dici? Certo. Eccellenzina, anziché eccellenza. Il numero 2, come fosse il parezzo della prefettura di Napoli. È il numero 2. Prefetto è Cruciani. Adesso... Il delegato è il numero 2, sarebbe il parente del suo. La prefettura di Napoli, eh? In linea, prego. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera, Cruciani, Radio 24. Stiamo cercando il prefetto. Guardi, io sono un funzionario di turno, il prefetto non risponde alle telefonate... così immediate. Ma lei è il numero 2 praticamente. Può esserle d'aiuto? No, noi lo cercavamo un po' per parlare di questa storia qui del parroco, no? Questa polemica. Guardi, che c'è sul nome, ha capito? Guardi, guardi, provi a contattare la segreteria del prefetto. Ma l'abbiamo contattata, poi ci hanno rimandato al centralino, non riescono a fare il ponte. Credo che ci sia un tentativo di fare un ponte, perché il signor prefetto, ma anche un po' per... Ha capito? Un po' per rasserenare questo clima dopo quello che è successo. Ripeto, io in questo, se lei vuole parlare direttamente con Sua Eccellenza, deve provare a contattare il centralino proprio e a parlare direttamente con lui, con Sua Eccellenza, oppure si faccia passare il capo di gabinetto. Però il capo di gabinetto. Scusi, no, lei è la numero 2. Scusi, lei è il funzionario, il numero 2 del prefetto? Come si può dire? No, io sono il funzionario di turno della prefettura, vale a dire che se si verificano delle emergenze io sopperisco, certo. Ma per le emergenze, ma questa non mi pare un'emergenza. No, per carità. Anzi, sottraiamo anche alla collettività il pronto intervento. Ma chi è che ecco, se c'è una telefonata di turno di un pronto intervento per un volo, per un velivolo di soccorso aereo, ci sta dicendo che io per questo le dico, si faccia passare gentilmente il capo di gabinetto. Va bene, perfetto. Dottore Esposito, scusi, Esposito. Non vogliamo farle perdere tempo se chiama qualcuno, perché grazie, buonasera. Scusi, No, perché poi sai. Sì, poi hai visto mai che ci mettono sotto accusa? Ti accusano anche di aver fatto, cari amici della prefettura, di aver fatto magari crepare qualcuno. Di aver fatto rallentare soccorsi importanti in quel di Napoli, dove ogni giorno avviene qualcosa. E io adesso però, scusami. Sergio, dico con grande rispetto. Beh, se arrivava una telefonata di un'urgenza, come facevamo? Voglio dire, il territorio di Napoli, lasciato per anni... in mano a far strame di persone che viaggiano sempre senza il casco sul motorino e vengono a dire a noi, amici della zanzara, che sottraiamo tempo, ma dove eravate? Dove eravate? No, cari? Però il funzionario della prefettura sta dicendo un'altra cosa. Sta dicendo, voi vi state intrattenendo qui al telefono, magari arriva un'urgenza e io non posso parlare. Però insomma, vabbè, magari ci accusavano di, non so, di qualche reato, non so quale reato. Comunque, anche lì è uscita fuori Sua Eccellenza, Sua Eccellenza. Abbiamo scoperto che... Ok, Sergio da Padova. Pronto? Sì. Sì, buonasera Cruciani, ma un'osservazione per il secondo... Non la sento per nulla. Camilla da Torino, buonasera. Signora Camilla da Torino. Camilla Cederna? Sì. No, non Cederna, mi rispettate. Signora Camilla, no, dica. Io volevo parlare. Ma non la sentiamo male anche lei. Ferdinando da Rovigno, no, eravamo con Paolo da Roma. Camilla, la richiamiamo, su, e non si sente niente. Paolo da Roma è caduto, Ferdinando dalla provincia di Roma. Eccomi qua, pronto? Vada, allora, volevo fare alcune osservazioni sulla puzza. Primo, devo dire che io sono del sud. Secondo, devo dire che ogni giornalista, secondo me, deve riportare la realtà delle cose. Terzo, ogni popolo ha il suo odore particolare. Guy de Maupassant, scrittore francese dell'Ottocento, diceva che gli inglesi odoravano di caucciù. E poi dopo in piloti che c'entra alleati, con la puzza dei napoletani, scusi? Parlo della puzza in generale. Ma che c'entra con la presunta puzza dei napoletani? In quel senso era offensiva la cosa, non era certamente gli napoletani odorano. Sì, ma la puzza è sempre offensiva. Ma ho capito, Ferdinando, ma vabbè, comunque poi... Allora, i piloti alleati che bombardavano le città tedesche dicevano che veniva un puzzo terribile che da quelle città saliva sopra. Poi dopo anticamente si diceva che il vero nobile che si riconosce dalla puzza, perché il vero nobile stando sempre in guerra combatteva e quindi allora puzzava, quindi allora quando uno gli dice a uno che puzza potrebbe pure dirgli che è un nobile, insomma. Poi dopo Edison, l'inventore che lei sicuramente conoscerà, e l'inventore dell'iPad, puzzavano pure loro perché siccome lavoravano sempre non avevano tempo per lavarsi. Poi dopo devo dire, per chiudere, con una mia collega dell'ufficio puzzava tanto, no? E finalmente dopo tanto sono riuscito a sapere come mai. Era il suo profumo che comprava in profumeria, per chiudere, quindi allora per chiudere il quadro delle puzze. Ecco, volevo dire solo questo. Va bene, grazie, grazie. Prego. Giordano da Brescia, buonasera. Giordano. Buonasera, sono Giordano. Vada. Ascolti, è possibile che una persona decida se si sente offesa? O mi devo fargli spiegare da qualcun altro? No, ma lei si può sentire offesa, lei si può sentire offesa tranquillamente. Secondo me si deve sentire offesa dai cori più che dal giornalista, e forse anche dal fatto che qualcuno abbia deciso di mandare in onda un servizio con dei cori così offensivi. Mi scusi, ma se mando un giornalista... Che succede qui col telefonino? Che succede? Scusi? Chi è? Parenzo che accende il telefonino? Che succede? È quel cretino che accende il telefonino, capito? Spegni il telefonino! Giordano, dica. Se mando un giornalista a una riunione Ku Klux Klan, non è che faccio riprendere tutte le stupidaggini che dicono e le mando in onda in prima serata, ok? E lo mando a un congresso, che so, di neonazisti, non è che mi vado scherzando. No, ma su questo, su come questo. Diciamo questi ebrei e io, giornalista, mi faccio pure la risatina sopra. Cioè, capisco che sto estremizzando. No, ma no, ma io lo capisco perfettamente. Lo capisco perfettamente. Un'ultima cosa, io vivo a Brescia, sono quei napoletani che si sono, come i cinesi, spostati in occupato tutta l'Italia e pullulano dappertutto. Vabbè, quindi, ma non è un'offesa questa, no? Insomma, perché è un'offesa? È una cosa di grande vitalità, insomma. Insomma, se non c'è bisogno di sottolineare. Cioè, loro non hanno detto come fatto di vitalità. No, ma certo, come cosa offensiva, sì, certo. Siamo tutta l'Italia. E per cui voglio dire, cioè, la cosa ha dato fastidio. Poi non voglio uccidere mica il giornalista, o sospetto. E via, cavalchi i miei pensieri, tu sei l'Amazzone di ieri. Ma oggi sono stanco e mal disposto a sopportare i tuoi sbalzi d'umore e quei naufragi che mi dai come un regalo. Ormai non sono più quel fesso, metto da parte mente e sesso, che è un mezzo compromesso tra un'astronave e la pazzia. Scrivo sopra il mio diario che d'ora in poi non sei più mia. Il Califfo che cita le Amazzoni di Berlusconi, che starebbero per formare una lista spinte anche dal Cavaliere e guidate niente poco di meno che da Micaela Biancofiore. Da Micaela Whiteflower. Da giovane prendeva anche i tram, eccetera. Ma la Frecciarossa l'ha creato lui, l'alta velocità insieme a Necci. L'alta velocità insieme a Necci l'ha creata lui, l'alta velocità l'ha varata lui. Aspetta, fammi sentire ancora la Whiteflower. È sconcertante risentirlo. Per uno che ha mezzi di trasporti propri, di trasporto propri, non è normale. Ma certo che è una cosa eccezionale, tant'è che la gente era sorpresa di vederlo alla stazione di Milano, alla stazione di Roma, ha ricevuto applausi, ha ricevuto baci. L'Amazzone numero uno, Micaela Biancofiore. Per come si comporta con i suoi nipoti, con i figli e con ciascuno di noi, perché io non ho mai visto allungare un dito da parte di Berlusconi nei nostri confronti, sì, è un esempio, e soprattutto un esempio di lavoro e di sacrificio, se vogliamo dirla tutta. Magari ci fossero tanti genitori che potrebbero insegnare il lavoro, come si lavora, come ha fatto Berlusconi. Quanti avvocati ci sono nel mondo? Quanti Berlusconi ci sono nel mondo? Ma certo, perché ha una visione di dove deve andare un'economia. Amazzoni in greco antico sono un popolo di donne guerriere della mitologia greca. Apparterebbero a questo gruppo all'interno del PDL Micaela Biancofiore, Nunzia De Girolamo e altre ancora. Uno potrebbe dire, ma di che parliamo? Però vogliamo contattare il signor Esposito alla prefettura di Napoli. Stasera sono impazzito per la prefettura di Napoli. Allora, Camilla da Padova, buonasera. Camilla Cederna, bene. Camilla da Torino, avanti. Allora, io volevo... Sì, però, signora Camilla da Torino, o lei si mette in un posto dove si sente, oppure sono costretto a cassarla. Non si sente niente, mi dispiace. Sergio da Padova, non è che stiamo al bar, anzi siamo anche al bar, però... Sergio. Buonasera. Cruciani? Sì, dica. Sì. Allora, il tema è questo. Uno è una semplice osservazione. Tra poco diventerà che la trasmissione saranno gli spot e non gli spot, diciamo, pubblicitari. Sta diventando una cosa incredibile il numero di spot che ci sono. È un peccato, lo so, voi non c'entrate niente, però faccio questa osservazione all'ascoltatore. Sì, ma gli spot servono per sopravvivere, lei lo sa, lo sì. Lo so, basta che non diventino troppi, perché dopo diventano veramente un danno. Che vuole che le dica. Lo so. Lei, Parenzo, forse non hai capito bene. Se lui parla, non ti sente. No, dunque, ma volevo interagire con Ma persona. Non puoi interagire per telefono in questo modo. Devi aspettare che finisca di parlare, altrimenti gli vai sopra la voce. Io quante volte te lo devo ripetere? Questo anche è vero. Ecco, dimmelo, avanti, di. No, allora, volevo dire al radioascoltatore che lui dovrebbe essere felice che la sua trasmissione preferita è quella che considera la trasmissione più eccezionale esistente nell'etere radiofonico, sia carica di ascolti, perché vuol dire che i suoi due beniamini sono due grandissime persone, cioè deve essere felice quando dice di grazie, bello che questa trasmissione sia infarcita. No, beh, se uno sente lo spot magari si incazza pure, no? Cioè, perché troppi. Ma Sergio, vada. Allora, il tema che volevo dire è questo. Secondo me oggi abbiamo raggiunto il Guinness dei primati con la sentenza del giudice Billy, sì, che ha condannato a 6 anni la commissione antirischi, italiana. Questa è una follia pura, ma è un'idiozia pura. Anche secondo me, però è evidente che non conosco i termini della questione, non conosco la sentenza, bisogna vedere il dispositivo, eccetera. Certo, sembra una sentenza sulla previsione dei terremoti. Cioè, questo sembra. È impossibile. Cioè, erano accusati di aver dato ai residenti avvertimenti insufficienti del rischio. Però, naturalmente, bisogna. Sembra un po' assurdo, Insomma, credo che sia la prima sentenza al mondo su una cosa di questo tipo. Mamma mia, è la sentenza più idiota che esista. Pensa che adesso qualsiasi amministratore, per pararsi il sedere, che cosa farà? La prima scossa di terremoto, magari del quarto grado, del terzo grado, cosa fa? Evacuare le città, perché se dopo deve essere condannato per non aver fatto evacuare la città, abbiamo veramente da questo momento in poi, secondo lei, ci sarà l'evacuazione di un sacco di città in Italia, no? Sì, perché cosa vuole? È chiaro che un attimo solo. Prefettura di Napoli. Sì, cerchiamo il dottor Esposito, buonasera. Lei è? Cruciani, Radio 24. Un attimo solo. Grazie. È la canzoncina della prefettura di Napoli. Come il vino con il ghiaccio? Pronto. Fatti tuoi. Mi portate un calice di vino? No, nel calice. Prego, in linea. Sì. Pronto? Pronto? Dottore Esposito, buonasera. Buonasera. Sono Cruciani, Radio 24. Parenzo. Buonasera. Salve, buonasera. Senta, cerchiamo di contattare... Intanto come sta? No, beh, starà benissimo, immagino. Intanto. Stavamo cercando di contattare il dottor De Martino per un po' per chiarire questa vicenda. Sì, credo che ve l'abbiano già detto, perché mi hanno riferito che sì. Il prefetto è andato a Roma oggi ed è sulla strada del ritorno. Ma non è contattabile con un ponte? È difficile contattarlo. Ciò non di meno, credo che abbiamo anche fatto presente che sì. Quanto il prefetto ha ritenuto di dire è riassunto in un comunicato stampa che è stato inviato lo so. Una vostra collaboratrice. Sì, lo so, però sai, noi la radio, dunque sentiamo. Lo so, ma io non è che le sto dicendo che noi purtroppo riusciamo a metterci in contatto. È difficile mettersi però, in contatto. Però ci tenevamo a che si tenesse conto sì. Di quanto lui ha ritenuto. Ecco, ma che c'è in questo comunicato sulla vicenda del parroco? Scusi, non ce l'ho presente. Prego, la sento male. No, mi scusi, in questo comunicato sulla vicenda del parroco, no, della signore, eccetera, che c'è esattamente? Qual novitas? Ah, ha telefonato al sacerdote oggi, no, mi sembra, tra l'altro. Sì, ha telefonato al sacerdote, glielo confermo. Ha telefonato al sacerdote. Che ci sono detti? No, vabbè, adesso poi leggiamo il comunicato. Eccetera. Prego? No, poi leggiamo il comunicato, dico, per saperlo, eccetera. Comunicato. No, vabbè, ok. Però era bello sentire era la voce, bello sentire la voce di Sua Eccellenza, capito? Vabbè, comunque, se non si può, non si può. No, glielo ho detto, non è cattiva volontà. Non riusciamo a metterci in contatto. Lui oggi è andato a Roma per un impegno istituzionale e certo. Sta rientrando. E vabbè, d'accordo. Ma per curiosità, lei lo chiama Sua Eccellenza? Così, per proprio una curiosità, Io? Sì. No, io l'ho sempre chiamato prefetto. Prefetto. Per la precisione. Però si può usare... E non credo che la questione anche con il parroco fosse eccellenza sì, eccellenza no, ma si parlava sempre di prefetto, come avrete potuto sentire. Sì, sì, assolutamente. No, per carità. No, però siccome c'è chi lo chiama su eccellenza, per capire, capito? Ma chi vuole lo chiama come meglio ritiene, non possiamo impedire alle persone no. Però, forse... però anche dire signore non è offensivo, ecco. No, da parte del parroco. Nessuno mai ha sostenuto questo. No, per carità, vabbè, comunque. Comunque ci saluti Sua Eccellenza intanto. Grazie, buona serata. Io non lo chiamo così, quindi questa è una sua scelta. Va bene, grazie, dottor Esposito. Sì. No, va noi... bene, arrivederla. Noi grazie, abbiamo buona rispetto serata. E quindi... 20:44 La Sua Eccellenza Cruciani. Beh, è bello Sua Eccellenza, però Sua Eccellenza. Beh, ma perché tu ricorderai che l'istituzione delle prefetture risale all'epoca di quando c'era lui. Sì, Gino da Napoli, buonasera. Gino? Pronto? Signor Gino? Giuliano da Pavia, buonasera. Ma non c'è anche... Sì, buonasera a lei. Dica. Complimenti per il suo stile di trasmissione. Vada. Volevo dirle, allora, per quanto riguarda i fatti dei danni allo stadio di Torino... Sì, a me dei danni allo stadio di Torino, posso dire una cosa, non me ne può fregare di meno, qui stiamo discutendo di un'altra cosa, cioè me ne frega perché naturalmente è vergognoso che abbiano distrutto uno stadio, ma questo avviene purtroppo in moltissimi stadi italiani da parte di moltissime tifoserie, non solo quella del Napoli, sia chiaro questo. Basta, secondo me non era un problema. E poi non c'entra nulla con la vicenda in questione del servizio sulla puzza dei napoletani, non c'entra assolutamente niente, sia chiaro, giusto. No, perché sennò altrimenti che non era un problema di sono stati terroni o non sono stati terroni, non è un problema di presenza geografica, a mio avviso quali sono dei valori dipendenti. Vabbè, questo è chiaro. Poi volevo dirle, se lei magari storicamente mi va a trovare la controprova, io faccio l'infermiere, anni fa mi ricordo che un paziente anziano siciliano molto colto mi disse che la parola terrone non è offensiva, tutt'altro, perché deriva dal fatto che nei primi anni del Novecento, quando i nostri italiani, soprattutto del sud, emigravano in America, quelli con una certa età, con la paura che fosse il loro ultimo viaggio, non potessero ritornare indietro nella loro terra, si portavano appresso in un fazzoletto un po' della loro terra, no? Una piccola manciata di terra. E poi una volta in America, passato il tempo, passato gli anni, amavano odorare questo piccolo porzione di terra che loro avevano nel fazzoletto, perché così ricordava loro le loro radici, la loro terra madre, eccetera. Per cui gli americani, ecco, nella loro lingua. Dunque lei sta dicendo che Terrone hanno chiamati Terrone come coloro che erano amanti della propria terra. Ho capito, Giuliano, inutile che faccia l'etimologia della parola Terrone. Il modo in cui lo si dice oggi spesso è un modo offensivo. Cioè, ma perché probabilmente. Ho capito, ma non è che uno fa il ragionamento storico gli americani, cioè uno dice Terrone e lo dice in senso negativo, diciamola tutta. La geniale Lia Celi su Twitter, senti cosa scrive: ma Amazzoni, caro Parenzo, cari ascoltatori della Zanzara, popolo della Zanzara, Lia Celi, due punti. Ma Amazzoni etimologicamente significa con una sola mammella. Sì. Cosa se ne fa Berlusconi? Beh, non è male, non è male, non perché, è male. Perché se n'erano tagliata una per avere l'arco, capito, per lanciare la freccia. Tu sì che sei un uomo acculturato. No, mi interesso di mammelle. Vi salutiamo e benediciamo amate pecorelle. Beh, una grande sorpresa per te, Parenzo. No, stai zitto un attimo, però non cominciare a scaldarti subito, eh. Non cominciare a scaldarti, perché qui c'è una cosa molto seria. Divino Telma, buonasera. Vi salutiamo e benediciamo. Buonasera, come sta? Ma chi se ne frega? Stai calmo. Ma perché, Divino, perché Parenzo ogni volta che lei interviene qui alla Zanzara si scalda? Mi dice la verità. Una parola definitiva. Parenzo, adesso ti tolgo il microfono. Stai zitto perché voglio parlare di una cosa uscita sulla prima pagina del giornale oggi. Allora, non se ne potrebbe calere di meno di questo insulso, essere senza capo né coda, che non sappiamo dove avete l'attaltato, probabilmente a Porta Portese o sotto qualche ponte del Tevere. Quindi cacciatelo, ributtatelo nelle fogne da cui proviene e parliamo di cose serie. Certo. Non c'è dubbio, non c'è torni dubbio. Nella sua spelonca. Stai zitto. Allora, Divino, scusi un attimo, il giornale in prima pagina oggi. Monti sembra il mago Telma e annuncia una ripresa che non c'è. Perché lei se l'è presa per questa cosa, scusi? No, noi veramente l'abbiamo saputo molto tardi, siamo appena rientrati da Parigi, dove operiamo da molti anni, sappiamo sì che c'è questa cosa perché ce l'ha segnalata il nostro ufficio legale, che nel frattempo si è messo in contatto con l'ufficio legale del professor Monti. Come l'ufficio legale del professor Monti? Scusa, scusi. E l'avvocatura dello Stato, se la vedranno loro, questi sono dettagli tecnici. Ci spieghi. Di scarso rilievo. Ci spieghi. Ma quale ufficio legale? Il suo ufficio legale? Fate tacere questo coso, cos'è? Dove magari lo pagate anche, questo sì sarebbe incredibile. Con tutti i disoccupati, i cassi integrati. Purtroppo sì. Allora, scusi un attimo, Divino. Dove siamo ridotti? Dove siamo scesi? Scusi, vabbè, Divino, allora il suo ufficio legale ha contattato. Ma quale ufficio legale? Su, smettila anche tu. Smettila. Ha contattato. Allora, come si diceva, eravamo in ben altre faccende. Affaccendati, sì. Impegnati a tutela degli interessi dei poveri, di coloro che soffrono, di coloro che hanno fame e sete di giustizia. Poi ci è stato segnalato che su questo giornale. Beh, il giornale. Ci è stato trasmesso. Qualche prima pagina, fatto, sì. In cui effettivamente l'accostamento, secondo il nostro ufficio legale, a costare il Divino Telma, che tra l'altro è stato ridotto a Mago Telma. Mago Telma, sì. E questo, è grave. Già la dice lunga sull'evidente senso implicito di prevaricazione che soggiace in questo cioè lei vuole portare in tribunale il giornale, scusi un attimo, Divino. Il nostro ufficio legale concerterà naturalmente con i responsabili legali del professor Monti e poi valuteranno se vale la pena, se c'è certo, indubbiamente da quello che ci è stato segnalato dai nostri legali, ma scusi, lei non l'ha il letto tono questo. È molto irriverente e poi cosa significa accostare il Divino Telma, chiamato Mago Telma, col professor Monti, irridendo l'uno e l'altro, perché parrebbe che il professor Monti avrebbe erroneamente utilizzato il cliché del Divino Telma. Scusi, per ma lei si è sentito offeso? Delle false verità, perché è questo che in sostanza dice il giornale, che Monti, imitando il Divino Telma, avrebbe detto il falso. Sì, o comunque fa delle promesse, fa delle previsioni che poi non si realizzano, certo. Ma questo è assolutamente fuori. Mettiamo a posto le cose. Scusi, Divino, fuori della realtà, perché certamente la ripresa sì. ci sarà, ma sì. naturalmente ci sarà nei tempi e nei modi che noi stessi avevamo più volte profetizzato. Beh, perché noi dubbio. Già 3 anni fa avevamo detto fa, che sì. nel 2012 non ci sarebbe stata la ripresa, non per c'è cui dubbio. Che senso ha che il giornale si stupisca di una cosa che già noi avevamo detto non sarebbe accaduta. Scusi, l'avevamo detto, non ci sarà nel 2012. Lei si è sentito dunque offeso ma da questo accostamento lui? Col ma professor Monti? Si offende, non lui. Ma che dici? Ma che gli dai corda? Ci sarà quando, naturalmente. Ci sì. sarà quando noi già avevamo no, detto. No, ho capito, ma lei si è sentito offeso da questo accostamento con Monti? Noi chi? Ci siamo sentiti... Noi? Particolarmente turbati. Sì, da che cosa? Da questo accostamento? Da questo accostamento, perché non soltanto è irribaldoso, ma sì. è prevaricatore, perché è un insulto alla verità. Vabbè, poveretto, dai. È anche un forte condizionamento. Non c'è dubbio. Dell'opinione pubblica. È un falso, insomma. È un falso sotto diversi profili. No, lei sta annunciando una causa nei confronti del giornale, del signor Sallusti. Diciamola tutta, divino. Sallusti è ancora a piede libero, non era stato. Lo devono ancora arrestare. Perché lei si augura l'arresto di Sallusti? No, per carità. Noi, ah, ecco, ci faccia una previsione, lei, divino. I giornalisti per noi sono sacri e non dovrebbero mai essere toccati. E allora? Assolutamente, casomai sono certi politici che dovrebbero essere. Scusi, ci faccio una previsione: finirà in galera Sallusti, secondo lei? Ma riesce a fare una previsione. Non abbiamo esaminato il problema di Sallusti. Perché ci sembrava del tutto marginale. Sallusti naturalmente ha impostato una campagna. Hai capito? Una campagna mediatica. L'unica volta che gli hai chiesto una cosa non fa un cazzo. Di tipo narcisistico che ha solo per scopo di vendere più copie del suo quotidiano. Perché Sallusti sa benissimo che le arrestato o no, di finire in una cella sono praticamente nulle. Ma che quindi è solo che questa cosa gli permette... di essere al centro dell'attenzione con un archivismo strenato. Ho capito. Spinge in quella direzione. Ho ma capito. Guarda, il narcisismo di Sallusti. Ma guarda che veramente è evidente. Un attimo solo, divino Parenzo, che dici? Ma no, voglio dire dalla spelonca. Da spelonga dico al signor. Al signor divino non lo chiamerò mai. Al signor Otelma. Ti hanno fatto, Otelma, una domanda specifica. Finiranno via. Anche noi non abbiamo esaminato il caso. Ma di che parli? Di che parli? In prima pagina dappertutto. E questo è il suo sogno, sostanzialmente. È questo che lui vuole. Di finire in galera, no? Di finire in galera. Per un paio di giorni. È il sogno di Sallusti. Tipo Sofia Loren, vi ricordate, no? E come no? È ritornata qualche giorno, quella, eccetera. E il lancio del film. Ora, Sallusti, naturalmente, in questo modo, cosa pensa? Di essere al centro, rilanciare la sua immagine... Poi ritornare divino, al giornale, divino, proseguiamo da qualche altra parte, ecco, con un bagaglio ben più sostanzioso, naturalmente. Allora, grazie al divino Otelma, ci sentiamo domani. Grazie, quello torna. Le saette di Otelma su Sallusti. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Radio 24. La passione si sente.